cessa. È male, boh, solleva. A te, rimetto il vecchio, eh? Ma cosa c'ha quel microfono? Perché non funziona? Ma adesso, se altro innesca, se abbasso non si sente nulla. Ma e le connessioni sono giuste? Le hai controllate bene? No, non l'ho aperto, ma l'altra volta funzionava, boh, non ho toccato nulla. Cavolo sarà, boh. Diciamo, l'avevo provato sull'altro apparecchio, ma sono uguali. Il Samurai e il Galaxy hanno lo stesso attacco. Magari staccandolo, riattaccandolo, hai tirato, si è staccato qualche cavetto, oppure tocca e non tocca, va a toccare con la calza e ti fa quel difetto. Non devi aprire e controllare. Ma non so, non è che ne ha calza. Sono quei microfoni da... abbiamo preso con Gianni, mi danno. Non vero, e poi li abbiamo pagato, amplificato con l'eco pure. Buonasera a tutti, doppio rum. Vedi, da Gianni si accoppia bene, mi ha detto. Ciao Gianni. Ciao, no, ma questo qui è l'MB4, col Galaxy, è un'altra tipologia di microfono. No, ma già va bene, nel mio l'ho sentito ieri, come va. Tranquillo, va bene. L'altro che c'avevo era una statica, ma mi ha dato problemi, allora ho cambiato subito. No, andava abbastanza bene, ripeto, non è il massimo, però se mi vale tutti quei soldi. Questo non lo so, l'altra volta l'abbiamo provato, mi sembra, c'era anche tu, non innescava, innescava solo, mi sembra, attaccando l'Alfa Lima, forse c'era un ritorno di stazionari, Esatto. Guarda, controlla i cavi, che magari c'è qualche filamento che tocca della calza, perché a volte succede, magari te ne dimentichi uno, tocca e non tocca, capito? E adesso prendo il cacciavitino, dai, lo apro. Riprendi, clà. Dai, già. Ma infatti, c'è un microfono a novero, cosa pensi che abbia? Cioè, avrai filamenti fini, se è spiralato, magari è una spirale di quelli a 4 soldi, e quindi magari tirando hai toccato qualcosa e fa falso contatto. No, quello tuo va bene già, ma anche quello lì potrebbe andare, solo che c'è un rumore, non so cosa sia. Ok, non sono microfoni da grini, c'era praticamente un'offerta della Midland, noi avevamo la pagina della Midland, c'era questa offerta che stavano dando i microfoni in offerta e ne abbiamo approfittato, però quel microfono costava prima, stavano dando in offerta per prezzo lì per passi di furi, capito? Ah, non è che costa 9 euro, Franco non me l'ha detto. E allora, c'è qualche collegamento che non va bene, sicuro. Se il microfono è buono, deve funzionare bene. Se poi da te funziona bene, lì è un problema di radio, è un problema di connessione, sicuramente. Oppure non si adatta a quel tipo di radio, perché io avevo una radio che i microfoni amplificati non li potevi mettere perché sennò innescava. Questo l'abbiamo già sperimentato negli anni, no? Ci sono delle radio che non sopportano il microfono preamplificato, perché sono talmente spinti. Tu per esempio metti un preamplificato a un Tokai 5024, a un HB23, ti fa in distorsione, è troppo acuta come modulazione, perché sono delle radio che già hanno un sistema di preamplificazione allucinante, e quindi è inutile mettere il microfono, capito? Hanno già il microfono precompresso. Se quel microfono precompresso lo metti in un'altra radio, non va, è proprio adattato a quell'apparecchio lì. Esatto, tutti gli esperimenti che abbiamo già fatto, come quelli professionali della ICOM, della Kenwood, della IAESU, sono tutti microfoni che tu prendi, io ne ho fatto un sacco di esperimenti, perché ce li ho tutte e tre, sia ICOM, IAESU e Kenwood, e per esempio l'MC60 non sposa, non va bene sull'ICOM, quindi il microfono Kenwood sull'ICOM non va bene, mentre l'SM20 che è della ICOM sulla Kenwood va benissimo. Sono tutte cose che abbiamo già constatato, e sicuramente anche quello lì problema di Franco. Poi vabbè, magari te l'ho detto, magari qualche filamento della massa, che a volte succede, anche a me è successo, magari magari non la dici bene quando lo saldi e te ne avanza uno, capito? Basta che tu che appena appena questi casi di qua innesca, alternata, eccetera. Io l'ho messo al minimo quel microfono che c'ho, voi mi avete sentito col microfono al minimo, perché poi quel microfono come lo alzi automaticamente si innesca anche l'eco, capito? Quindi se voglio lo do anche con un po' di eco oppure ne metto molto, come voglio, basta che tu lo alzi, si inserisce l'eco automaticamente insieme al cursore delle, diciamo, del volume, c'è anche quello dell'eco. Ma io mi ricordo quello che avevi tu con l'eco, che era, mi pare, DM1000, non so se lo fanno ancora, ma era favoloso con quelle radio vintage, andava molto molto bene, andava molto bene, ma questa, vabbè, la tua solita modulazione, quella conosciuta, che io ho sempre apprezzato negli anni, che ti ho sempre detto, il Galaxy con l'MB+4, l'MB+5, va benissimo, quindi, ma ti ripeto, anche l'altra, quella che stavi usando ieri, non era così male, dai, andava bene. Interessante aver trovato l'abbinamento giusto, perché a volte non si abbinano, come stavamo dicendo, appunto. Basta trovare l'abbinamento giusto e vabbè. Oh, yeah. Stavo cantando fino adesso, mi adesso ho messo il telefono in carica perché la scarico a morte. Anche quello, no, io mi stavo guardando un po' di cronaca, un po' di TV. Poi sono andato una sciacquata e ho fatto la barba, domani c'è la visita oculistica anche, per gli occhiali. E quindi ho detto, adesso accendiamo, vediamo se c'è qualcuno a fare due chiacchiere. E ho chiamato e mi ha risposto Franco. Andare. E beh, binario, aspettare questo microfono. Mi sembra che non l'avevo neanche toccato, perché mi sembra che siano le saldature originali. Quindi sembrano a posto, i fili sono saldati bene, tutti separati. Tra l'altro gli metto un po' di nastro per isolarlo, ma non penso che sia quello. Adesso sta andando bene. No, questo è lo sciure. Troppo bello sarebbe. Adesso lo richiudo, dai. Prova l'aperto, fra, invece, non lo chiudere. Prova a inserirlo aperto, a vedere. E a te. E toccare, guardare dove può far contatto. Comunque c'è vetino fine, magari, sai, le quattro posizioni. Controlla che ci sia lo spazio giusto, che sia tutto pulito. Adesso, come va, male? No, vabbè. Adesso non c'è nessun rumore. Aumenta l'amplificazione. Così a manetta. Se lo usa lui. Ho solo tolto, non ho fatto niente, ho tolto solo lo spinotto, dai. Prova a isolarlo adesso. No, adesso sta fischiando. Oh, ancora? Ancora? Sempre fischiamo. Ora. All'inizio perché non fischiava? Anche quello c'è, non stava fischiando poco fa. Sono i misteri dell'elettronica. Vabbè, mi allontano così? Così va bene. Quindi se mi avvicino? No. Così innesca? No. Niente, quindi non è neanche quello. Adesso prova a mettere l'eco. No. Sta innescando? Sì. Togli l'eco, mettilo al minimo, fra. Mettilo al minimo, come lo uso io. Sì, così è... l'eco è spento. E così va bene. Però non deve... perché con l'eco non funziona? E invece non si adatta a quell'apparecchio, magari quell'apparecchio lì c'è già l'eco dalla casa, così. No, negativo, non è. Comunque va bene con il micro. Adesso c'è l'eco, 1, 2, 3? Sì, ma è troppo, basta. 1, 2, 3, prova? Sì, è di lusso, lascialo così. Però non sta neanche innescando. No. Così vuoi che innesca? Devo tenere a tre quarti. Così va bene? Così è di lusso, fra. Devo tenere a tre quarti il mic gain. Magari il mic gain troppo alto. Così va bene, fra. Sente leggero ecco appena appena. L'amplificazione c'è, la radio è buona. E adesso lo chiudo di nuovo, va. Ciao pagata. C'era rotto, magari funziona bene. Io come sto? Mamma mia! I KPO sono buoni come microfoni, quello che ho comprato io ultimamente, che me l'ha fatto comprare Marco Condor, che l'aveva preso lui, e me l'ho preso anche io. KPO si chiama, e ne parlano tutti molto bene, se leggi anche le recensioni, sono tutte positive. Qual è quello piccolino? No, rimane, non è tanto piccolo, è come un microfono normale. C'ha il cursore davanti per il volume e basta. Non è ad eco, è solo amplificato. Ah, ho capito quello. No, io ne ho uno della Fayette, così. Con la rotellina, c'ha la batteria dentro di quelle rotonde. E funziona molto molto bene, ce l'ho sempre dentro il cassetto. L'avevo provato, era 4, e poi l'avevo provato con un baracchino, insomma, mi ricordo se l'Elbex, se qualcosa del genere, boh. E poi l'avevo messo a parte, la Fayette. KPO si chiama, vai a vederlo. È un microfono semplice, qui non ti credere che sia... È proprio semplice, con un cursore davanti. Va molto bene, dopo te lo faccio sentire, attacco la campanella che poi te devo far girare tutto. Ma ce l'ha davanti il cursore oppure ce l'ha in alto sopra? Il mio ce l'ha in alto sopra. In alto, è proprio davanti, però in alto. È come quello che c'ho io della Fayette. C'ha la rettina, è bellino anche, è nero con la rettina. Lo usavo molto tempo fa, poi non l'ho più usato. Io ne usavo uno della Intec, con il baracchino Intec FM500S, e tutti mi dicevano, ma cosa si è attaccato? E se facevo una radio, una bomba. FM500S ce l'ho anche io nei baracchini da collezione, è stato sempre un buon baracchino. Un buon baracchino, io pigliavo un bel golpe, invece della LAN 48. Come modulazione va molto bene, c'è una bella timbrica di modulazione. E un autista mi aveva insegnato come aumentare il canale, mi ha detto te lo faccio io. Ha pigliato un rifratto, gli ha forzato la manopola, perché ha detto che c'è un pezzo di plastica che blocca i canali, e mi ha aumentato il canale. Sì, anche a me. A me me l'aveva fatto, non me lo ricordo se era Massimiliano, non me lo ricordo. Comunque da 34 me l'aveva portato a 40. Sì, saltava qualche canale, però ne aveva in più, dai. Comunque era un bel apparato, io lo usavo in macchina, poi me l'hanno rubato dalla macchina e non l'ho più avuto. Però avevo sempre l'idea di ricomprarmelo perché era uno di quegli apparecchi che mi era piaciuto molto. Quello è l'Egain Quinto, mi piacevano molto, che ce l'avevo a casa di mamma, l'Egain Quinto. Sì, ce li ho quelli. C'ho la FM500S, l'Egain Quinto, la serie dei Cobra, c'ho e... Quando la foto, io c'ho un Galaxy che non ha nessuno, non ce l'ha nessuno, è praticamente tutto cromato, grande, è sintonia continua, non è attacchi di canali A, B, C, D, no, va da 26 a 28, 27,999, cioè da 25 a 28, tutto in continuo, e c'ha il canale e il frequenzimetro, ma è una cosa spettacolare, sembra un HF. Grande quanto il Galaxy, non è lungo, è più ciccione, più alto, ma è molto bello, è simile all'HF che ho io qua, 7400, quando le metto vicini sembra un HF, proprio, ed è una sigla particolare, c'era anche il Walter come collezionista, ma è eccezionale, io l'avevo provato qualche anno fa, quando stavo provando per mettere poi tutti a posto, ma cazzo col Tane più 3 e l'MB più 5 c'è una modulazione a questi livelli. Ma è tipo il Colt Excalibur? No, già, è molto più bello, guarda. Se vuoi ti mando la foto, ma è molto, molto, molto più bello. È un Galaxy particolare, proprio, che non sembra neanche vintage, sembra l'ultima generazione. ma c'ha tutto, c'ha tutti i filtri, la regolazione della potenza in una certa maniera, cioè, è veramente bello, è tutto cromato, è molto bello. E a me cromati mi piace, mi piace anche il Colt Excalibur, ma lo volevo prendere, poi ho detto gli manca il frequenzimetro, a meno cose del Galaxy, non me l'ho preso per quello, però mi piaceva come estetica, era molto bello. E qua, nel frattempo che adesso vado a vedere se c'era nel telefono la foto, se no gliela faccio e te la mando. Aspetta un attimo, intanto Franco sta chiudendo il microfono, riprendi con lui. Bravo, liberatoci. Sì, sto isolando un po' qualcosa, per vedere di schermarlo un po'. Guarda, adesso sto uscendo perfettamente. È una bella radio, No, questo è sempre quello. Ah, non mi butti a due. Vedo lo sciure. Adesso provo a chiuderlo, non si chiude. KPO, come mi ascolti? Bene. Questo qui è KPO, quello con il magno. E io sono nel campo? Sì, ma sono di radio, però. Così a manetta. Alternata. Cavolo, sempre, Maria. Chissà cos'è, ma cosa hai alzato adesso? Il macchinino. Ehi, così a tre quarti. Mi senti? Sì, ti sento, ma la modulazione è bassa. Allora, bisogna cambiare forse quei contatti, non vanno bene quelli originali. Magari sono anche da regolare dall'interno, fra, adesso che ci penso, i trimmer che ci sono dell'eco eccetera, magari abbassando quello riesci a avere una modulazione perfetta. Ma è vero che si potevano toccare anche quelli dentro, vero? Cosa? Ma sai che cambio? Te l'ho mandata già, quando c'è tempo guardato, ma è molto bella. Ce l'ho qui il telefono, dopo guardo, dai, ce l'ho qua sulla radio. Ecco, questo qui è il KPO, Claudio. È bella, per la modulazione, va bene. Ora l'aumento, guarda, così va bene. Alla grande, questo è col magnum però. K. Dal coso, dal bip me ne accorgo. No, va bene, ottimo. E il segnale com'è con questo apparecchio? Aumentato lo stesso? No, è 9+20 con questo. Invece c'è un'antenna, così almeno sei tranquillo. Invece c'è un'antenna. Anche basta anche una Grand Prix, un'antennina. Sì, che non è antenna, questa è la Smart Tech, non è che sia. L'antenna è questa, capito? Però è molto bassa, cioè non ho più curato la 27, no? Perché il segnale com'è basso. Ah, non è basso. Io ti sento benissimo, anche in radio. E come ti stavo dicendo, ma quella lì è una lecca metrica o fa anche la 27? Devi regolarla per la 27? Questa è la Smartec che fa 10-11 metri, capito? Non è un problema, solo che io ce l'ho più tarata per i 10 metri che per gli 11 metri. Ma questa non c'è bisogno di tirarla su, questa è una di quelle antenne che irradia anche a 50 cm da terra, un metro da terra. Questa è adesso su un palo a fianco alla verticale VEU. Sarà 4-5 metri da terra, non di più, capito? Però va bene anche per la 27, non è che non devo cambiare antenna. Questa le faccio la seconda taratura, le allungo lo stub, la taro per la 27 ed è perfetta. La posso tirare su anche altre 2-4 metri, ma non c'è bisogno di mettere antenna nuova, no? I segnali arrivate tutti fortissimi, non c'è problema. Ma devi accordarla, no, ma anche tu arrivi bene qua, cioè stavo niente da dire, ma tu mi stavi dicendo non c'ho più antenna della 27, io per quello te l'ho detto. Ma devi accordare, ogni volta che vai 27 devi accordare, basta, così. No, non è accordata, è praticamente accordata a centrobanda. Adesso ad esempio io vabbè sono con la P250 inserito, allora di stazionarie in 27 ne ho 1, 1 e 1, 1 e 2, mentre vado in 10 metri sono a 0, capito? Posso usarla anche così, ma non c'è bisogno di accordare. Cos'è di accordare? E allora va bene così, va bene di lusso. È 1 euro non sono niente, stazionario, va bene così. Fino a 4 si può trasmettere tranquillamente, ma io ne ho. Questo già lo conosce, la TD50, lo strumento lo racchivo e quindi è abbastanza preciso, 1 e 1, 1 e 2, e sono praticamente disinserito l'accordatore, lo sto usando solo come strumento e come commutatore d'antenna e basta, capito, perché no, non ce n'è di stazionari. Quindi va bene, nel senso non c'ho più antenna come c'avevo prima, ma basta che la tiro su e la posso usare tranquillamente, recupero qualche punto esce, ma a cosa serve? A nulla, l'importante è che si possano fare due chiacchiere e basta. Sto guardando quella radio, che bella. Già, è uno spettacolo, ma se la vedi dal vivo è uno spettacolo. Così non la apprezzi, perché vabbè c'è anche un'altra radio sopra, sono tutte conservate in uno scaffale, ti mando anche la foto dello scaffale che c'ho, ce n'è un mare, ma quella è spettacolare già, quella è spettacolare, se tu la vedi dal vivo sembra piccola, ma non è piccola, è molto profonda, molto alta, molto larga, ma le funzioni che ha quella radio sono spettacolari, poi se la vedi accesa è tutta rossa, così dalla fabbrica, strumento rosso, tutto il display rosso col frequenzimetro rosso, è una favola, molto molto bella, molto molto, me l'aveva fatta avere Walter. Bella, molto bella, mi piace. E non se ne vedono qua, la verità, non l'avevo mai vista io questa radio. Sicuramente è roba americana, è roba che è venuta da fuori. Sì, roba americana. Non so adesso, guarda se lo vedi, mi pare che non ci abbia, non so se mi manca l'FM, non so, mi pare, c'è la MSSB, USB, LSB, CW, sto dicendo sembra un HF, cioè da fare per attaccare anche il tratto CW, ma è bella, poi c'è il pomellone, è uguale, qua c'è lo stesso pomellone che c'ha l'HF che c'è, è uguale, preciso identico, così cromato. Bello! Vabbè, ti segna sempre i canali a fianco, quindi tu ti regoli. Quando devi girare, puoi girare sia dai canali che dal frequenzimetro oppure solo dal frequenzimetro. No, tutto in automatico, tu giri il pomellone, non è A di A, B, C, D, E, F, no, tu giri il pomellone e lui gira, e ti segna il canale, canale 50, 55, ok, canale 55, troverà come canale, e a fianco c'è la frequenza, 27, 575 per dire, capite? Così vai avanti, sino ad arrivare a 28, ti segna proprio i canali, ti dà 100 canali scritti e 100 di frequenzimetro. Bello, bello, ma è radio che ha ordinato Walter da fuori quella lì? Sì, dagli Stati Uniti ne hanno arrivate due, una l'avevo presa io. Cazzo, che bello che sono, bello veramente. Qui non la dai, insomma, come fai tu, prima c'è la radio bella e poi le vedi, per fare spazio per gli altri apparati. Che radio è? Claro, la trovo su internet. Non lo so, non so la sigla, devo leggere la sigla. No Gianni, se ti mando la foto io c'ho tutta una parte vintage che non... Tu immaginati che ne ho dato 18, ti ricordi? Ne ho dato 18, ok? E ne ho altre 26 tra basi e veicolari, di cui c'ho anche il Royce, sia veicolare che base, ok? Ne ho un mare, ti do la scritta, come si dice, guarda, avrei la la sigla, che sigla, come si chiama? Aspetta. La marca invece qual è? Già. Galaxy 595 mi pare che sia. Quello che sta dicendo Claudio. Me l'ha mandata. Galaxy DX2547 è un base. Aspetta che lo scrivo allora. Galaxy DX2547. Sì, 2547. Guarda, vai, ce lo trovi. Perché non stai uscendo già? No, non stai uscendo già. Come mai? No, allora ormai è giunto a San Radio. No, già, solo portante, niente radio. Eccola. È trovata. Sembra grande, ho un manopolone al centrale nella parte bassa. Questi qua, tre tastini in verticale tondi sulla destra. Quella lì è tacromata, sembra una KF, guarda che bella. Quella è una sintonia continua, dico continua nel senso che non ha commutazione di bande. Parte da 25 fino a 28 e te lo segna sia nel frequenzimetro che come canale. Claudio, uscendo sto? Sì, adesso sì. Cazzo, era un cursore sbarrato, non so come ho fatto, non lo so, l'ho toccato e ho toccato il cursore del microfono. Sempre una cosa, se tu cazzo con le dita grandi. E al buio non ci vedo, che io sono un bello straziato. Questo lo sta venendo 428,88 euro. Quanto viene? 428,88 su eBay. Quella radio? Quella lì, questo Galaxy DX2547 AM SSB CB stazione base radio. Non ha prezzo. $650 mi è costato a me, $650. Siamo lì, 428 euro, penso sia più di $550. Lo sdoganamento, $700, fatto il botto. Prezzo suo. Ma ti dico che io l'ho accesa una volta, ho detto, ma cazzo, non l'ho mai trovata. Quando sono arrivato qua, che ho portato tutta la baravan delle radio eccetera, che ne avevo un mare dentro gli armadi, ho detto, mi sono rotto le balle, adesso le tolgo tutte, se vuoi ti mando la foto, è bellissimo perché è fatto a L come avevo prima, tutta la parte HF di fronte, a sinistra invece c'è la L dove c'è tutta la parte CB e vintage. È venuto un bellissimo lavoro. Vabbè, io sono molto pignolo su queste cose. E allora ho detto, ma fa questa? E poi c'ho quello della il presidente anche già, il presidente quello base, non so se il Madison o il Jackson, quello lì. Anche quello lì è bellissimo ed è nuovo. E l'ho provato a accendere, mi sono spaventato fra. Ma bella, è tutta rossa accesa. Sì, qua è accesa, si vede che è bella. E l'ultimo pezzo, è nuovo, questo ne è venuto già 4. Questo è l'ultimo pezzo che è rimasto a disposizione. Claudio, ma ce l'hai collegata? No, la posso prendere e collegare, non c'è problema. C'ho il commutatore, sì. La verticale collegata sotto commutazione, basta che sta col connettore a questa, però no, posso commutare dal 7004, sì, aspetta, la faccio sentire. E la faccio sentire, sono curioso, sono curioso di sentirla. Sentire come quell'altra che c'ha lui, quell'altra una favola, ma non mi metto, come si chiama? Trunk, non me lo ricordo più davvero come si chiama. E con lui era un bel bello, quello tutto cromato che mi fa un lineare di quelli da 1000 watt. Ah, da che? Quella no. Non ce n'è per nessuno, quella no, ce l'ho sempre io, però è a casa di Roberto Quadrato, perché non c'è lo spazio per mettere anche quella, capito? E quindi, siccome lì c'è molto spazio, è a casa sua, ma non, non c'è problema con Roberto, c'è anche altre cose, insomma, non c'è problema con Roberto, è lì a casa sua, capito? La gestisce meglio lui perché è messa in una parte dove c'è altri baracchini, è troppo grande, non riuscivo ad avere uno spazio ed era sempre conservata dentro l'armadio, invece lui ce l'ha fuori. Aspetta che collego questo cacchio di cosa, microfono normale, già, microfono normale su originale, perché microfoni da tavolo che c'ho sono tutti senza batteria. Aspetta che la collego, riprendi fra. Cazzo, vai, sentiamo il mostro. È peccato però. Avanti, già, ci ho mandato il link. Cappa. E adesso vado a vederlo. E comunque è un bel apparato, io mi sono spento con il microfono, ma è un bellissimo apparato. Sì, bello, semplice, è un bello smitter analogico, bello presente. Così è che mi piacciono a me, analogici, non mi piacciono così come le fanno adesso. Oh, cazzo, le ferme, perché gliel'hanno tolta? Qui c'è uno adesso su Amazon, $485, in euro è molto meno, Anche qua ne è rimasto solo uno in magazzino. Ma sono pezzi nuovi qui. Sì, lì c'è scritto nuovo, quello che ti ho mandato c'è scritto nuovo. Ne è venuto già quattro, ne è rimasto solo uno. Sì, ma è in dollari qua, non è lì. No, io te l'ho mandato, io lo vedevo in euro. No, forse in dollari. Vabbè, comunque è caruccio, Vabbè, io questo che sto usando l'ho pagato 4,50. L'altro, lo stesso, l'ho pagato 500, il Magnum. Questo è il Cobra, Il Magnum l'ho pagato 500. Quindi siamo lì, dai. Questo cosa che di meno. Nuovo, però nuovo. Nuovo. Aspetta, ti mando anche l'altro. Il Magnum mio c'ho il 980, che non l'ho mai visto a nessuno. Tutti quanti ce l'ho messo in roba, io c'ho il 980. È forte. Puoi anche abbassare un po', perché mi vibra la colonnina. Così bene va. Ehi, alla grande. Claudio. Claudio, sto scendo male, sto scendo tutto quanto a tratti. Non è Claudio? Ah, guarda che c'è collegato male qualcosa. Qui arriva bassissimo, neanche se è stato a lungo. Sicuramente ha sbagliato col commutatore. Qualche altra antenna sta usando. Perché c'è basso di radio. Male. Non è una radio buona, sta uscendo tutto cupo e a scariche. Ora 1, 2, 3, 4, 5, prova la radio, mi sentite? Adesso sta migliorando. Ho sbagliato l'antenna, sai che metto il microfono normale? Sì, ha migliorato il segnale, però la radio non è presente. Bocca, 1, 2, 3, prova la radio. Ora 1, 2, 3, 4, 5, prova la radio, mi senti adesso? Sì, ti sento, però rispetto al K non c'è paragone. Sì, ma questo è un microfono normale, fra. Cazzo, fra, questo è un microfono normale, 1, 2, 3, 4, ho provato a tirare su il Mickey Gain, però è un microfono normale questo, È un bel corposo, c'ha dei bassimi, è molto corposa come radio, cla. Questo è il microfono normale, è sul microfono normale. Allora, sto andando con 15 watt. Quanto ne dà il watt quello lì? Mi sembra 25, però non lo tiro di più, 20-25, in banda laterale 35-40, una cosa del genere. Cappa. Vabbè, magari mettendo il microfono più ficcato pompa di più, perché con questa radio qui risulta molto cupa e con molti bassimi, proprio tutto bassi, senza avere medio alti e alti, dai. Aspetta, uso un altro microfono, vediamo come esce. Calma, prova, facciamo le prove, mi mancano le prove. Intanto c'è l'attacco quello classico, dai, ho visto, col pin a quattro poli. Sì, a quattro ingressi. Ma vabbè, ci sono quelli che sono a quattro e sono invertiti i fili, quelli di sopra sotto, tipo per dire l'attacco del Midland con quello del Galaxy, li bisogna invertire gli attacchi. Sì, infatti io il valvolare ha lo stesso attacco, però diversa posizione. Un attimo il telefono. Ehi, avanti, Cla. Guarda, vedere, questo qua è l'altro microfono suo, perché ne ha due in dotazione. E questo è un po' dei toni un po' più medio-alti, invece l'altro era proprio tutti bassi. Ah, ecco, ho capito. Vabbè, comunque la radio funziona perfettamente, poi si tratta di trovare l'abbinamento microfonico, le cose sue, capito? Però già funziona, aspetta, Gianni è 5-9 più 20 anche qua. No, il segnale non ha cambiato tanto, solo che la radio quella là spinge di brutto quella lì. Vabbè, quello là è scappa con l'MC60, però ti ripeto, questo è un baracchino vintage che è di tanti anni fa e quindi bisogna prenderlo per quello che è, dai. Non so quanti anni abbia, ma sarà come questo, anni 80, cos'è? Presuppongo che sia la stessa cosa, non lo so. Non ho visto le caratteristiche tecniche, però ti ripeto, il funzionamento è bellissimo, c'è una bellissima ricezione, anche non è solo la trasmissione. Adesso tieni conto che da anni e anni che non lo facevo andare, perciò. Va bene, dai, lo rimetto a posto e ricollego il K. Sì, dai, sono qua. Eccomi qua, K. Oh, non c'è paragone, cavolo. Boh. Fra, cazzo, c'è. Ma veramente è un baracchino di quella cosa con questo mitico K, no? Fra guba, fra. Davvero, come può cambiare, minchia, da giorno alla notte, una forza questa radio allucinante. Lo so, purtroppo il K sono K, non c'è niente da fare, io questo non so manco quanti anni ce l'ho, uno me lo sono tenuto perché è così, non c'è niente da fare. Questo cos'è, 440 o 140? Il 440 è? No, questa è la linea del 140, questo è il 140, il 440 ce l'ho in 10 metri, questo commuta 10 e 11 praticamente, col commutatore con la T250, dai. E poi questi modelli sono i più stabili, dai, più resistenti. Sì, sono delle macchine che non vogliono mai. Se consideri che non so quanti anni è rimasta ferma questa radio e poi andava sempre bene, non ci sono problemi. Un attimo, mi aspetto un secondo. Siamo qua. E poi vanno bene anche in AM, che non sono tutte le radio che escono bene in AM. Quale fa? No, dico, molte radio, tipo, non so, ho sentito Iaesu, cose, compagnia bella, magari vanno meglio in banda, però in AM non escono, non spingono bene come il K. No. Guarda, io te lo posso garantire, su prove fatte negli anni, sia ICOM, anche gli Aesio hanno una buona resa sul ricetrasmettitore, ma come trasmettitore, come trasmissione K non c'entra affatto. Sì, no, anche secondo me, l'ho notato anch'io. Non lo so, da tempo da sempre curato queste cose, io l'avevo già constatato tanto tempo fa, anche in prove così a livello locale, però è un altro tipo di modulazione, un altro tipo di tutto, capito, fra? No, è bella, c'hai i bassi, c'hai i midi, c'hai gli alti, c'hai tutto, questa è una radio proprio completa, poi ha la tua voce, al tuo timbro, diciamo, si addice parecchio. Giallisco, è sempre quella, capito? Sempre il problema. problema di corde vocali, in questo periodo sono anche un po' rauco, un po' così, non ho la modulazione che avevo nei periodi scorsi, però la radio funziona, dai. L'importante è che le cose si tengano bene. Beh, anche io, la cosa che ho, insomma, anche se sono vecchi, ci tengo sempre. Lo so, è così. E così, no, ma io anche quelle vintage, va, adesso ti mando, adesso non so se tu si vuol fare perché ho cambiato il telefono, ti mando poi magari dopo, mando a Gianni, te la fai girare da lui la vetrina che ho dei vintage ancora, ne ho regalato tantissimi, però ne avevo altrettanto. Ed è molto bello averli, mi ha sempre appassionato avere questi tipi di radio, però senza avere mondezza, amici, cioè le cose proprio che non si trovano più di vecchia generazione, che però hanno un valore, capito? Un valore di denaro, capito? Non solo affettivo, anche economico. È cambiato telefono, ma anche il numero? No, il numero è rimasto lo stesso, però ho perso un sacco di cosette, perché non l'ho fatto io, non l'ho dato a fare, e mi hanno fatto un casino vero mi hanno fatto, mi hanno tolto un sacco di cose, vabbè, comunque poi controllo a vedere se sei su WhatsApp, che cos'è? Ma cos'è che sta parlando da sopra? Io ho due numeri tuoi, uno finisce con 29 e uno con 06. Uno è 129, mi pare, finale, così è. 129, l'altro 706. No, 706 non è il mio, c'hai anche quello di Anna tu. Quello potrebbe essere di Anna? Sì, 706 finale di Anna, il mio è quello 129. Ce l'ho assieme, praticamente ce l'ho, ho due contatti nel tuo nome, capito? Quindi il tuo 129. Ti faccio uno squillo, cioè, per vedere se c'è il mio numero. No, ma ce l'ho il tuo numero e anche su WhatsApp, sì. Ti vai, credo, in automatico, vale? Appena lo metti in rubrica, subito si aggiorna la lista di WhatsApp, da. Sì, pensavo che era perso, invece eri all'ultimo. Ah, ecco, ne ho anche altri, guarda, il sugar. Ho controllato alla fine della rubrica, sono praticamente quelli principali sono tutti all'inizio e quelli invece che non uso sono tutti alla fine. Porca miseria, no, già ci sei, fra. Ti mando la foto con la cosa, come mi sono organizzato. Quando non li trovi sulla barra in alto, digita più o meno il nome o il cognome e lui te la cerca, capito? Perché lui ti dà in genere quelli che usi spesso, te li mette in pole position, in prima fila. Esatto, infatti mi ha selezionato l'ordine alfabetico, tutti quelli che uso ce li ho iniziali, mentre gli altri sono tutti alla fine, capito? Aspetta che controllo. C'è qualcuno su 10? Siamo qua. Ah, pensavo che me ne fosse andato, è venuta un'amica che voleva un po' di rosmarino e sono sceso giù a prenderglielo, che gli serviva per fare una rosca. Scusa, è buona, dai. Kappa, no, ci mancherebbe. Non li nego un po' di rosmarino, no? No, sto scherzando, era una battuta, dai. Kappa, vabbè. Come lo ce lo sono buona da amica? Stavo leggendo qua, vedi. Su che apparato lo stai usando, il microfono? Io? Quel Midland. Io c'ho il Cobra con il microfono KPO. Ce l'ha presente, vai a guardarlo. È un bel forse questo microfono. Se aumenti c'è un bel forse. No, va benissimo così. No, il microfono Midland che abbiamo preso, che abbiamo uguale. Tu a quale apparecchio l'hai abbinato? Se per caso gli hai fatto modifiche o l'hai utilizzato così com'era? No, l'ho modificato. l'ho messo su Ruiz e gli attacchi erano diversi. Ho capito. Nel Galaxy non va bene? No, no, è tutto un altro attacco. Il Galaxy da Ruiz è solo un altro attacco. Cioè, quello che c'è nel Galaxy va bene per questo apparecchio che sto usando, ma non va bene per il Ruiz. Il Ruiz è un attacco tutto a parte. Perché questo pare, allora, dice che non dovrebbe funzionare, perché l'attacco Midran è diverso. La differenza, se non ricordo male, dice questo qua, i piedini 1, 2, 3, 4 vanno i fili invertiti tra i due sistemi, non lo so. Quindi è probabile che bisogna cambiare le connessioni. Allora, se ha l'attacco Midland, quello lì, però non c'è l'attacco Midland, perché io mi ricordo che lo mettevo sul Galaxy, andava bene, quindi c'ha gli attacchi invertiti, perché il Galaxy c'ha l'attacco Midland, però invertito, quelli di sopra sotto e quelli di sotto sopra, invertiti i cavi, capito? Il Galaxy ce l'ha così, anche questo qua, il Cobra. Invece il Midland ce li ha normali gli attacchi. E quindi non è compatibile Galaxy con... come si chiama? Con Midland sicuramente non sono compatibili. Allora per quello che innesca, dai. Perché la portante è giusta, la portante è giusta. C'è qualche altra cosa da invertire? Sì, sono quattro fili, mi fra. Ma se invertire uno con l'altro dovrebbe essere giusto. No, che strano, però. Vabbè, dai, adesso non ho tempo, sono cose da fare con calma mia, possibilmente di giorno. Vabbè, va. Sì, perché dovrebbe andare bene. Va bene, non è mio. Il mio si sente bene. Io mi sono ascoltato, abbiamo fatto togliere l'eco perché dice che era fastidioso, ma io l'avevo regolato e mi sono ascoltato col Galaxy, l'eco andava benissimo, era leggero, si sentiva bene. Sì, sì, poi tu mi hai ricordato anche che ci sono i trimmer interni, li ho visti, ho tolto il tappo e ci sono i trimmer, anche quelli erano da regolare, uno sarà per l'eco, uno per l'amplificazione, così è. Beh certo, io non ne ho regolato comunque, li ho lasciati come erano. Io neanche mi ricordo, con la memoria che mi canta. Magari li hai toccati, li hai aumentato troppo per quello che innescavi, non sarà isolo. Ma se tu mi hai detto che si riusciva un bel basso, quindi è impossibile che sia alto, capito? Se metto un microgain a tre quarti, non mi sentivi più. Lo sai cosa devi fare, Fra? E prenderti un altro apparecchio e ascoltarti in cuffia e te lo regoli piano piano. Adesso però non ne ho disponibile, come mi organizzo, mi ascolto. Mi sa che infatti l'altra volta l'ho fatto così. Io così faccio, quando devo ascoltarmi, perché uno ti dice abbassa, l'altro ti dice alza, ma lo regolo come voglio io e così lo lascio poi. Perché se non te lo fa alzare, abbassare, Claudio, la tua via. Claudio? Io sono qua. Lì, stavo cercando Gianni. No, sono qua, ti stavo mandando WhatsApp. Guarda, poi magari giralo tu a Franco, a Gianni. Quello era praticamente il mobile dove ci sono tutte le radio vintage, una parte, e poi gli altri sono nella sala radio. Minchia. Scappa, fa, sono tutto profumato di rosmarino. Penso che è profumato, che... Cos'è, fra? Minchia, cosa vuol dire? Troppo, sono. Aspetta, che mi sembra, invece di mandarla a Gianni, l'ho mandata a te di nuovo. Certo, ricoglionendo ti sai. Sì, mandala tu, vado a guardare che sono scaricato il telefono, vado a guardarlo dopo. Kappa. Vabbè, adesso vorrei fare concorrenza a un nostro amico. A chi già? A Walter. Lì c'è da... ci vuole un sacco di coso. No, io ne avevo bene già, io guarda, queste, più tutte quelle che ho dato a quella persona che tu sai, ne avrei avuto almeno un centinaio, ma alla fin fine sono troppe, capito? Vabbè, è troppo stupido, io ho tutte le, praticamente ho tutti i ripiani pieni e mi basta così. Ci ho messo la luce azzurra per la notte e va troppo bene, è proprio bella, quando me la guardo mi piace proprio. Sì, vabbè, qua è tutto, quando accendi tutte le radio ci sono, già c'è la luce. No, già vabbè, già vabbè. Ma è Marco Giulio, non entro io e non entra Violetto, boh, boh. E io è entrato. Ma gli avevo promesso che mi faccio sentire un po' più spesso, capito, per rianimare questo circolo di morti. E invece tutta la sera siamo in radio e siamo sempre in tre, però. Siamo rimasti in tre. Perché c'è molta gente che piace ascoltare e non entrare. Ci sono degli orecchioni, mi. E allora, amici di buco. Sono buone, mi bruciate un cannello e mangiate subito. Quindi c'era un mio collega che quando, sai, lui aveva il macellaio, andavano a macellare i maiali, quando li portavano in mezzene, si tagliava questo mio collega un pezzo di fegato crudo e se lo mangiava, e la rece. E anche io ho visto la punta del fegato tagliata e mangiata, calda calda ancora. Cazzo, che schifo, mamma mia, no, quello mi fa impressione. Sì, io il fegato lo faccio poco cotto, ma lo faccio tagliare grosso e lo faccio poco cotto, mi piace così, però mangiarlo crudo del tutto non mi ispira. Io non so, forse il fegato sono una delle poche cose che non mangio volentieri. Anche Tyson gli piace molto il fegato. Il fegato e il cuore, gli piacciono un bel. No, il cuore sì, il polmone, mi piace, dai, fa la sangue, buonissimo, diciamo che è quasi carne, dai. E il fegato è particolare, se fatto la veneziana a me mi piace molto, fatto con le cipolle, il vino, fatto la veneziana, è buonissimo. Ciao, ma tu i fegatini li stai trovando per il cane? Fegatini di pollo? Ehi. Non li ho più dati io, comunque non so dove li trovi, dalle lì al quadrato, lì ci sono sempre. Ah, ma non li stai dando perché le fanno male o che cosa? No, perché adesso sto andando al centro canni e compro fegato, cuore, qualche fettina di cavallo, così ogni tanto li do. Però mangio volentieri il cuore e il fegato e non lo fa la diarrea né niente. Se li do il pollo subito a diarrea. Anche il mio è così, anche il mio, vabbè. Il mio oramai è molto magro, un po' poi diciamo esaurimento allucinante. La notte si alza da solo, se ne va in giro, vuole uscire fuori alle 2, alle 3 di notte al giardino, e lui già gli apro la porta. Vai, vai, apri zocca, perché vuole entrare che c'ha freddo. È tutto a conto suo, il mio. Poi. Quanti anni c'ha Filippo? 13 anni c'ha, fuori al normale, è un cane cinghiale. 16 anni! 14 ne fa. No, Tyson ne ha 10. Ne ha 10, ne deve compiere 11 a marzo, il 16 marzo le compie 11. Ma quella è già un'altra razza, magari dura un po' di più, ma il mio è già fuori. Fuori, cioè il veterinario l'aveva messo anche su un sito dei cani, che c'è lui, del veterinario, del gruppo veterinari, e tutti si dice no, non può essere. Un bulldog inglese che ha 14 anni non può essere. Ma poi della stazza sua, capito? Della stazza sua. Un bulldog inglese 9, 10 anni massimo, massimo. Se no a 9 anni già inizia a crearti problemi, non respira più, cioè non regge. Il tuo è un cinghiale, non molla. Vuol dire che lo tratti bene? Guarda che Tyson, praticamente la razza di Tyson è data per 9 anni di vita. Però non è detto, capito? Il veterinario me l'ha detto, secondo quello che mangiano, un po' da tutto dipende, il movimento che fanno. E da come lo tratti, infatti il veterinario dice, cioè, questo cane se è così, se è ancora così, sì, ha poche articolazioni, ormai non salta più, non corre più come prima, passeggia, insomma già si lascia andare un po', mi sa c'è sempre appetito, è chiaro che ogni tanto, ogni settimana devo darle la pastiglietta di cortisone per tenerlo in piedi, per darle un po' più di forza, sta prendendo degli integratori anche lui per i muscoli, per insomma per tante cose, mi sta costando un patrimonio, però io lo tengo in piedi finché regge. A lui le deve cedere il cuore, praticamente, capito? Si deve fermare il cuore. Però è un cane che mi sta dando molto molto da fare, molto molto da fare, veramente. E il veterinario ha detto proprio, come ha detto Franco, se è così, che c'ha quegli anni, il cane ha appetito, mangia, non ha grandi malattie, è un po' scoglionato, mi c'ha un testicolo un po' più basso dell'altro, gli ho fatto fare le analisi, non sembra niente di grave, ha avuto una brutta prostatite, l'ha superata, faceva sangue, cioè un sacco di problemi ha avuto, però sempre in piedi, sempre in piedi. Ed è così proprio perché? Perché lui dorme, ha sempre dormito dentro casa, sempre tutto coperto d'inverno, sempre insomma mangiare molto molto curato, è chiaro che il cane dura. Allora io avevo un amico che tu conosci bene, Antonio, che in campagna c'avevo questo cane che si chiamava Leone ed era piccolino, era basso, lo chiamavano Leone come prese in giro, era bassottino, di quelli mitici, ha durato 21 anni. Sì, lo conosco quel cane, c'ero andato a casa di Antonio. Quel cane lì ha durato 21 anni, ma non penso che tu forse l'hai conosciuto. Io avevo 15 anni, 16 anni quando c'aveva Leone. Praticamente quel cane lì mangiava pane duro inzuppato nell'acqua con le uova che si praticamente le galline facevano, magari si scheggiavano, le mettevano le uova in mezzo, si mettevano formaggio e tutti gli avanzi che avanzavano li mettevano in mezzo, mangiava questa roba qua, eppure Lugano era sano. Sì, già, ma l'uovo si dà al cane, io un tollo d'uovo quando le faccio, per dire, il riso, faccio il riso in bianco con un cucchiaino di formaggio, le metto il rosso dell'uovo, le fa molto bene, capito? Oppure la pasta con le zucchine bollite, tutte tagliate a pezzettini, le metto sempre un tollo dell'uovo e domani è uscito. Infatti c'è un pelo ancora, quando lo porto al veterinario invece non può essere. Non le manca un pezzettino di pelo, bello lucido, bello, poi lo porto da Monica a tagliare le unghie ogni 20 giorni. Prima le crescevano anche meno, adesso con tutte le pastiglie che sta prendendo, soprattutto il cortisone, le crescono molto di più le unghie, anche perché non cammina, non sta in giro, sta solo in giardino e boh, capito? Invece prima le unghie se le faceva in strada. E quindi ogni 15-20 giorni lo porto a Monica a tagliare le unghie. E poi lui si è sempre disipirato. Filippo, isso quanto si è diventato vecchio. No, Tesoro è abbastanza arzillo, corre, gli lancio la pallina, si mette a correre, corre anche veloce. Da poco l'ho portato al veterinario perché ha fatto il vaccino, l'ha tutto visitato e detto è in salute, è bello arzillo, per l'età che c'ha è bello arzillo. No, la verità è che le articolazioni vanno bene, no? Perlomeno, se adesso è così. Io lo porto giù, lo faccio girare, a volte lo faccio correre con gli altri cani quando c'è lo spazio per farlo, ma lui è sempre atletico, capito? Corre come un cane piccolo. Magari no, Filippo no. Filippo non più, poverino, voi. Sono tanti, 4 anni in più già. Anche Filippo 9-10 anni ancora ce la tirava. Ma adesso no, adesso te lo chiami, prima come dicevo, mia papà nonna, io corria in presa, adesso invece cammina, viene in fretta, cammina, se magari lo tieni, salta, però quando salta cade da solo, cioè non c'ha più l'appoggio che aveva prima nelle zampe di dietro, capito? Si mosa lì, perché non ce la fa, le articolazioni oramai sono quelle che sono, ma dette dal veterinario, non ha nessuna malattia, ma proprio le manca le articolazioni, la muscolatura che aveva prima. Era un bel cane, al cane mi ha dato un sacco di soddisfazione Filippo, però adesso purtroppo è anziano e bisogna trattarlo l'anziano, come dice il veterinario, tu c'hai un anziano a casa con le campelle, quindi cerca di trattarlo in maniera insomma lui subisce il buffetto e lo posso fare. Vai Franco, un attimo di bianco. Dai, io vi saluto, vai che vado a portare giù al peso che mi sta guardando e sta facendo e vuole scendere giù, dai, mi vende la mimura, mi vende la mimura, come diceva un amico nostro. E vabbè, l'epace, lui praticamente ha come se avesse 67 anni, 68 anni, capito? Ha quasi, ha più dell'età mia. Ma il tuo? Ma lui è un atto di 90, però. lo so. La soddisfazione è che li abbiamo sempre trattati bene, che sono ancora vivi. Ci sono cani che muoiono subito, ma io ho conosciuto una che gli dava la pasta con la ricotta da mangiare, che sul cane era grasso, e diceva, ma non si è ingrassato troppo questo cane, cazzo, buru buru di ciboni, si cazzava pure, capito? È morto, e non c'aveva, cosa c'era, 3 o 4 anni, si è morto subito perché gli davano cazzate da mangiare. Aspetta, basta con la ricotta, i latticini non si danno al cane, non ne ha mai mangiato il mio cane i latticini, assolutamente, mi d'estate qualche volta, Ilaria mi le dava un pochettino di gelato, ma non volevo, mi cazzavo, non aveva mai mangiato cazzate vivo, il cane per mangiare bene, se vuoi che sia bene di stomaco e tutto, capito? Perché io le ultime analisi che gli ho fatto fare delle feci sono perfette, proprio perfettissime, le urine, tutte le analisi le ha fatte, perfette, è vecchio, quindi non regge più come prima, non corre, non salta, ma non me ne ha fatti nulla, c'è anche il reflusso, la notte respira male, e cosa devi fare? La vecchiaia carogna. Va bene già, vai a portare il cane, sono qua, aspetta Franco, poi anch'io stacco perché sono già le 8:15. Allora, ci sentiamo, ciao Franco, ciao Claudio, è stato un piacere, ci sentiamo domani, dai, ciao ciao. Dai, riprendo io, dai, anch'io dato devo chiudere. Ciao Claudio, ciao anche a Gianni, grazie per la chiacchierata e dai, curatevi i vostri animaletti, ciao ciao. Ciao ciao a tutti e due, dai, ci sentiamo domani, ciao ciao, saluto anche chi è in ascolto. Gappa, ciao ciao ciao.